11. Ripartì da Fort Niagara in silenziosa solitudine. Una cascata di spilli scendeva dal cielo bianco e annunciava il gelo. Joseph guardò la pista stretta e lunga davanti a sé. Decise che non sarebbe stata la via del ritorno, ma quella del pellegrino. L'inverno non l'avrebbe fermato. Avrebbe annunciato alle nazioni la sua novella, il Vangelo di Joseph Brant Thayendanegea. Se John Butler aveva la polvere da sparo e la carne salata, lui aveva una storia da raccontare, talmente bella da incendiare gli animi. Quella di un indiano che, come Hendrick tanti anni prima, aveva raggiunto l'isola d'Inghilterra e aveva parlato al grande padre inglese. Non li avrebbe certo convinti a combattere in mezzo alla neve, ma il primo caldo avrebbe risvegliato gli istinti e la voglia di cimentarsi, se non altro nei più giovani. Poi qualcosa sarebbe successo, ne era certo. Gli eventi l'avrebbero aiutato a convincere gli indecisi. Dio sarebbe stato dalla sua parte. Raggiunse Geneseo il giorno di Natale. La curiosità degli abitanti lo accolse con un abbraccio caldo. La sua fama si diffondeva e lo precedeva fino ai laghi delle Cinque Dita e alla Mohawk Valley. Toccò i villaggi Seneca, scendendo a sud, fino alle pendici dei monti Allegheny. Ai vecchi raccontava del saggio padre bianco che gli aveva affidato il compito di combattere in suo nome. Ai giovani raccontava dell'esercito più forte del mondo, ai bambini dei fuochi d'artificio. Il primo giorno dell'anno nuovo era a Buktut, poi a Konewango, poi la neve lo fermò e lo costrinse a tornare indietro. Si spostò a est, verso le Cinque Dita. Attraversò i villaggi, fermandosi in mezzo alle case, intorno ai fuochi, a riferire le parole del re. A Cayuga lo accolse la febbre e dovette fermarsi per 2 settimane. Fuori dal suo alloggio, una fila di persone aspettava il racconto del re e della città dai palazzi immensi, che potevano contenere centinaia di persone. Joseph accontentava tutti, si mostrava fiero, ma non vanaglorioso. Fingeva di essere in salute, respingendo gli attacchi di tosse come bocconi amari da deglutire. Quando fu di nuovo in forza, ripartì, alla volta di Onondaga. Torme di ragazzini urlanti e canti di donne annunciarono il suo arrivo. Ai custodi del fuoco sacro della Confederazione chiese di presenziare al concilio di Oswego per la primavera. I Sachemma consentirono, in cambio del racconto dettagliato del suo viaggio oltre oceano. «Come Hendrick!» mormoravano i più vecchi seduti in circolo, e il nome di Thayendanegea volava da una porta all'altra della lunga casa. Un vecchio capo decrepito gli chiese quanti fossero gli abitanti di Londra. Joseph rispose che erano più delle termiti in un termitaio e i Sachem ne discussero per un giorno intero, chiusi in conclave come vescovi papisti. «Fratelli, questa ribellione è la minaccia più grave che le 6 nazioni abbiano mai dovuto fronteggiare. Gli inglesi d'America si sono dichiarati indipendenti dall'Inghilterra, non riconoscono più l'autorità del re. Questo significa che considerano decaduto il limite posto alla loro espansione sulle nostre terre. Dilagheranno verso ovest come un mare. Solo combattendo possiamo sperare di salvarci dalla catastrofe. Combattere per l'Inghilterra è combattere per noi stessi». Qualcuno annuiva, ma i più restavano perplessi e cogitabondi. Nessuno lo seguì. Riprese imperterrito la sua via solitaria e si lasciò alle spalle i villaggi insieme all'inverno. Arrivò a Oquaga alla fine di marzo, tirandosi dietro 2 muli carichi di ciò che era riuscito a procurare. Era solo. Era l'indiano più famoso delle 6 nazioni.